Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera andiamo a Treviso per fare, a 4 anni dalla sua installazione, il bilancio sulla presenza in città di un sistema di parcheggio intelligente. Quello dei parcheggi intelligenti è, o almeno dovrebbe essere, una delle più tipiche applicazioni smart a livello cittadino, invece è ancora abbastanza poco diffusa. Parliamo della possibilità di dotare ogni singolo posteggio di un sensore in grado di rilevare se il posto appunto è libero oppure è occupato, e da questa prerequisito diciamo possono poi discendere tutta una serie di applicazioni, di cui parliamo con la Mobility Manager di Treviso, Michela Mingardo. Buonasera Mingardo. Buonasera. Allora, voi siete stati tra i primi in Italia a dotarvi di un sistema di questo genere. Allora, intanto ci spieghi come funziona. Viene installato un sensore in ogni stallo e ogni stallo viene numerato con... Ogni posto. Si dice stallo, il nome preciso per il posto auto è stallo. Sì, esatto. E nel momento in cui si parcheggia, il sensore rileva la massa metallica dell'auto, trasmette l'occupazione al parcometro e il parcometro lo trasmette al... A una centrale di qualche tipo. Esatto. Quindi si fa un buco nell'asfalto, si mette sotto questo sensore, che è una piccola batteria che dura alcuni anni. Si fa un piccolo carotaggio sull'asfalto di circa 10 centimetri, quindi assolutamente buchino. Importante. Viene installato il sensore, viene coperto con un po' di asfalto e questo poi... Per 5 o 10 anni resta lì e comunica con una colonnina dove si può anche andare a fare i pagamenti, eccetera, eccetera, no, che fa da accentratore per un certo numero di stalli, no? Ecco, questo è il modo in cui funziona il sistema. Che cosa consente di fare? Beh, dalla centrale operativa noi vediamo tutti i dati. È molto interessante questo sistema perché ci permette di avere in tempo reale il tasso di occupazione e di rotazione per ogni singolo stallo. Beh, l'interessante per l'utente è perché semplicemente parcheggia, deve leggere il numero e ricordarselo, va alla colonnina, digita il numero, effettua il pagamento e poi ritira il biglietto e può andarsene senza dover tornare all'auto. Perché ha pagato per quel posto lì, non serve la testimonianza del bigliettino. E poi cos'altro può fare? Può succedere che magari si trova dall'altra parte della città, sta per scadere la sosta e ha la possibilità di andare a qualsiasi parcometro e allungare la sosta, quindi senza la necessità di tornare all'auto. Può fare la stessa cosa via SMS, se non sbaglio, addirittura, oppure via sito. Quindi ci sono questi vantaggi, diciamo, dal punto di vista del cittadino, di praticità nelle procedure di pagamento e di utilizzo dei parcheggi a pagamento. A cui se ne aggiunge forse un altro, che è la possibilità di sapere qual è il parcheggio libero più vicino. Gira voce che il 30% degli spostamenti in città siano dovuti a gente che cerca parcheggio. Quindi quello di sapere dove andare dovrebbe aiutare, no? Certo, il fatto di sapere in tempo reale quanti stalli sono liberi e quanti sono occupati ci ha permesso di installare 5 pannelli a messaggio variabile, okay, con 3 bandiere ciascuno, che indicano ciascuno un parcheggio all'interno del centro storico, e quindi un utente che percorre la circonvallazione sa già dove entrare e dove troverà parcheggio. Dove troverà parcheggio, quindi vi serve anche per dare un feedback agli utenti questo sistema su dove sono i parcheggi disponibili, sì, no? Sì. Oltre a questo abbiamo anche realizzato un'app che si chiama Trevimove e che dà indicazione su quali sono le aree dove ci sono ancora parcheggi liberi. Ecco, senta, invece per l'amministrazione quali sono stati i vantaggi? Beh, intanto immagino che se uno sfora di 3 minuti gli arriva subito la multa lì, no? Beh, diciamo che non siamo proprio così rigidi. Ecco. Quando abbiamo installato questo sistema, l'anno successivo, il primo anno, abbiamo avuto un aumento degli introiti del 10%, quindi questo è significativo. Significa che la gente ha capito che... Meglio paga il parcheggio che la multa, insomma. Direi. I vantaggi per l'amministrazione sono stati notevoli, perché siamo in grado appunto di conoscere in tempo reale l'occupazione e la rotazione per ogni singolo stallo di sosta, quindi anche di capire quali sono le piazze che vengono maggiormente utilizzate. Questi dati vi sono anche serviti appunto a capire meglio che cosa succedeva e anche a riorganizzare, no, i parcheggi, gestendo anche gli aspetti conflittuali che nascono sempre quando si parla di parcheggi, che ne so, per esempio con i commercianti. Certo. Abbiamo avuto l'occasione di riorganizzare le aree carico-scarico e quindi siamo riusciti a passare da 300 stalli in totale in centro storico a 150, quindi dimezzarli. Perché li usavano, diciamo, per parcheggiarci la macchina loro stessi anziché per farci il carico-scarico. E grazie a questo, al recupero di questi stalli, siamo riusciti ad offrire una sosta a rotazione agli aggiudicatari, sia a pagamento che con degli stalli a disco orario. E il risultato è che questi commercianti, che all'inizio non erano tanto contenti perché dovevano parcheggiare più lontano la macchina, hanno visto aumentare la clientela, perché gli potevano parcheggiare davanti. Certamente. Grazie Michela Mingardo. Arrivederci, grazie a voi. È tutto, a lunedì.